Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Se io vi dico Roberto Costantini, lo so, voi pensate subito al personaggio seriale del commissario Balistreri, perché effettivamente questo personaggio è stato protagonista di diversi romanzi, per esempio la famosissima trilogia del male, Tu sei il male, Le radici del male, Il male non dimentica. Ma adesso Roberto Costantini ha deciso di far debuttare nella sua narrativa un nuovo personaggio, poi capiremo se diventerà seriale o meno. Questa volta si tratta di una donna normale? Non lo so, perché il titolo del romanzo è appunto Una donna normale, pubblicato da Longanesi. Questa donna apparentemente ha una vita normale, ha due figli, un marito, anzi due figli adolescenti, quindi insomma sono in una fase molto delicata della loro vita, che litigano, discutono. Lei lavora al Ministero degli Interni, ma in realtà è un funzionario dei servizi segreti. Roberto, allora, come ti è venuto in mente di disegnare e dipingere questa Aba, che però poi, diciamo, quando assume le sembianze, diciamo così, dell'agente segreto, assume l'identità di Ice? Allora, la cosa che avevo in mente è di raccontare una storia che fosse incentrata su una donna veramente normale, perché noi siamo spesso portati ad attribuire all'aggettivo normale una connotazione quasi negativa, come se fosse una diminuzione, mentre invece la normalità È molto sottovalutata, no? Quindi la mia idea era di costruire un personaggio non solo femminile, evidentemente, per motivi che poi dirò dopo, ma che soprattutto fosse normale. Normale significa, secondo me, nel mondo di oggi, parlando di una donna, che abbia una vita affettiva e un lavoro. Quindi per me lei ha tutte le caratteristiche. L'elogio della normalità, insomma. Secondo me sì, nel senso che lei è la stessa persona che se lavorasse alla cassa di un supermercato o in una banca o facesse la maestra. E perché una donna? Perché nella fattispecie le donne normali in questo paese, e quasi sempre ormai solo in questo paese, tra quelli diciamo civili, è considerata inferiore agli uomini normali. Questa cosa, adesso senza fare la campagna Me Too o questa cosa, io non credo, non è quello il punto. Il punto è che siamo un paese in cui la normalità femminile non è ritenuta pari alla normalità maschile. Se vogliamo prenderla in senso statistico, io sono un ingegnere, quindi alla fine penso sui numeri, alla fine le ragazze, le studentesse vanno mediamente meglio all'università, eppure quando vanno a fare i colloqui di lavoro da neolaureati o da neolaureate, le aziende prima di tutto assumono i maschi e poi assumono le ragazze. Quando le assumono con uno stipendio magari del 20% inferiore. Sì, o comunque con uno stipendio che durante la carriera cresce più lentamente, eccetera. Per cui, con ruoli anche diversi. Allora, se noi vogliamo usare un termine per questa cosa, io userei il termine femminicidio, cioè questa cosa di massa. Hai usato una parola forte. Sì, però poi alla fine, quando tu fai entrare una persona sul mercato del lavoro uno o due anni dopo, a parità di abilità, stai facendo qualcosa che è uno stillicidio, sì, certo, che danneggia la vita della persona, l'aspetto economico, psicologico, la sicurezza di sé, tante cose, no? Allora, io, siccome credo che le donne normali siano in grado di fare assolutamente, non voglio dire meglio, ma almeno alla pari degli uomini, i lavori normali, incluso quello che fa Aba in questo libro, volevo un personaggio di questo tipo. Allora, non è che Aba faccia proprio un lavoro normalissimo, mettiamola così, perché lei è una donna appunto che ha due figli, adolescenti, va dal parrucchiere, deve cucinare tutte le domeniche, il pranzo ci tiene a questa cosa, è appunto dipendente dal Ministero degli Interni, però è anche, diciamo, un agente segreto, un funzionario dei servizi segreti. In particolar modo lei segue una serie di informatori delle moschee in Italia, quindi sostanzialmente diciamo che opera nell'ambito della lotta al terrorismo islamico. Dico che è relativamente normale perché si trova in situazioni in cui, per esempio, parla con un militare libico, la chiama il figlio adolescente e dice: mamma, ma la donna di servizio mi doveva cucinare questo, invece io volevo quest'altro. Cioè è una donna che ha una doppia vita e anche delle doppie responsabilità. Sì, io volutamente non ho voluto enfatizzare il ruolo di Aba all'interno dell'intelligence, preferisco chiamarla intelligence che non servizi, perché il lavoro dell'intelligence è basato sull'intelligenza e non come nei film di James Bond o di Mata Hari o di Lara Croft sulla forza. Quelle sono stupidaggini che non esistono nella realtà, è un lavoro di intelligenza, quindi si chiama intelligence. Il lavoro di Aba è stato per questi 20 anni un lavoro fondamentalmente di ufficio. Certo che fa un lavoro all'interno dell'intelligence possiamo dire questo non è come lavorare in banca. Sì, però alla fine lei sta dentro un ufficio. Sì, però ecco, i suoi familiari per esempio non sanno non quando sanno. Va in missione, questa, che è andata esatto. in Libia, esatto, che è andata in esatto. Niger o in altri posti. Questa è la caratteristica, l'unica caratteristica che per 20 anni è stata anormale, se vuoi, che il lavoro è un lavoro che richiede grandissima riservatezza. Quello che succede in questo libro però è, per la drammatizzazione del libro, che adesso senza rivelare troppo, però sostanzialmente facciamo. Che Abba Vene si trova coinvolta in una situazione. Però allora, il punto grave. Di partenza noi lo possiamo dire perché è a pagina 12, sostanzialmente un suo informatore le dice che ci sarebbe un little boy che partirà da uno dei barconi e arriverà in Sicilia, poi raggiungerà gli amici al nord per fare un colpo grosso. Chi è il little boy in gergo? Ma little boy era il termine con cui gli americani chiamavano la bomba atomica che sganciarono su Hiroshima, e nel termine, diciamo nel gergo dell'intelligence in questo senso, è il terrorista più pericoloso, quello che è disposto a farsi esplodere in mezzo a una folla. Quindi si aspetta che in Italia arrivi questo terrorista, e lei sa questa cosa? Lei viene informata di questa cosa. In condizioni normali nel suo lavoro questa cosa richiederebbe che lei scriva un'informativa molto precisa, la incroci con analisi di altri dati per accertare la validità dell'informazione, tutta questa serie di cose che si svolgono in un ufficio, e poi passi questa cosa a chi agisce sul campo. Invece, senza rivelare troppo, a causa di una serie di errori prevalentemente maschili, prevalentemente maschili nel senso che provengono dalla mentalità maschile, non perché c'è una logica, nel senso che provengono da una mentalità razionale ma maschile, la situazione prende una piega molto complicata e molto drammatica, in cui lei lentamente viene trascinata fuori dalla sua vita lavorativa normale, che era dentro l'ufficio, ad uscire da questo ufficio, andare prima a Lampedusa, a Pozzallo, cioè i posti dove arrivano questi barconi, poi da lì in Libia, in Niger, in posti che sono l'inferno dantesco di oggi. È anche molto bello che lei, per esempio, ogni volta che vede queste situazioni estreme, è appunto una donna normale e riporta tutto alla normalità. Lei vede i ragazzini, per esempio, e dice, beh, se qui ci fossero i miei figli, loro non riuscirebbero a sopravvivere più di un tot. Quando vede la situazione in cui vivono le persone, i migranti, che devono ancora arrivare in Italia o in altri paesi, si immedesima in quelle situazioni e le riporta alla sua normalità. Le riporta, come spesso fanno i genitori ai propri figli, ai propri perché figli. La nostra proiezione, le nostre paure più grandi come genitori riguardano l'avvenire dei nostri figli, quindi quando lei vede a Tripoli che l'ordine pubblico è tenuto da ragazzini di 20 anni con il Kalashnikov, con divise che non sono di una polizia ufficiale, sono di qualunque genere, che potrebbero fermarti per un controllo immotivato e spararti in mezzo alla strada, e pensa a Cristina e Francesco, pensa a Cristina figli. E Francesco, dice, come faranno i miei figli, che sono quasi coetanei, a confrontarsi con questi nella vita, no? È così sempre, cioè in qualunque momento di queste cose il suo timore non è mai per se stessa, non è la paura fisica, è la paura di un mondo che ci sta forse venendo addosso, e in cui lei immagina i suoi figli e dice, i miei figli in questo mondo non ce la faranno. Prima hai accennato al fatto che appunto tu sei ingegnere, tu hai più di una doppia vita rispetto ad Abba, nel senso che appunto hai fatto il consulente aziendale, adesso sei uno dei dirigenti dell'Università Lewis, insegni appunto negoziazione, hai fatto veramente tante cose, fai lo scrittore. Mi ha colpito alla fine nei ringraziamenti, tu ringrazi alcune persone e poi dici, devo ringraziare alcune persone di cui non posso fare i nomi perché appartengono ai servizi segreti, sostanzialmente, ecco. Quindi per scrivere questo romanzo ovviamente ti sei documentato, hai avuto i tuoi informatori, mettiamola così. È sempre una questione di responsabilità, no? Nel momento in cui un giallista o uno spy story, cioè, decide di scrivere un libro che ha uno sfondo sociale reale, io credo che sia obbligatorio, per non ingannare i lettori, conoscere quella realtà. Quando ho scritto della Libia anni 60 nella trilogia del male è perché io ci vivevo in Libia. Penso tu sei nato a Tripoli, sei cresciuto, sei rimasto fino, esatto, diciamo, alla fino maggiore a 18 età. Anni, sì. Allora, chiunque abbia letto quei libri ha riconosciuto dentro quei libri, anche senza esserci stato, la realtà, la sensazione di realtà. Ora, volendo scrivere un libro, perché volevo mettere Abba in una situazione, lei normale, ma in una situazione anormale, che potesse diventare anormale, ho scelto l'intelligence. E chiaramente mi sono dovuto documentare molto bene, anche chiedendo in modo formale, lecitamente, di avere delle informazioni, ovviamente le informazioni per non scrivere delle stupidaggini, certo, e quelle non riservate, perché ovviamente si tratta sempre di cose delicate, in modo tale da dare al lettore la sensazione di essere dentro un mondo che il lettore non conosce e che io ritengo sia una di quelle tante realtà italiane eccezionali di cui noi parliamo male. Noi siamo specialisti di questo, siamo all'opposto degli anglosassoni. Gli anglosassoni hanno un'intelligence mediocre, come dimostrato da tutti i numerosissimi problemi che hanno avuto a casa loro con il terrorismo. Però si sono inventati tanti anni fa un supereroe che si paracaduta dal cielo, casca su un coccodrillo, fa scoppiare una bomba ed esce in smoking dall'acqua. Per cui nel nostro immaginario i servizi segreti inglesi sono... Certo, sono più forti. Ecco, invece tu sei d'accordo con l'ipotesi che fortunatamente in Italia non abbiamo mai avuto un attentato di un certo livello di terrorismo islamico proprio grazie al nostro servizio di intelligence? Ma io penso che questo non sia un argomento discutibile, voglio dire, chiunque non sia uno struzzo che vive con la testa sottoterra si rende conto che non può essere caso o fortuna che l'Italia sia l'unico paese occidentale. Sarà il lavoro non solo dell'intelligence, anche della diplomazia italiana all'estero, del modo in cui alcune grandi aziende italiane operano correttamente all'estero, è la somma di tanta gente che fa un ottimo lavoro. Quindi riconosciamo di avere delle eccellenze. Poi, se posso spendere ancora una parola, non è che l'intelligence ci protegga solo dalle cose che lo scrittore mette come più drammatiche, come il terrorismo. L'intelligence, per esempio, protegge il know-how delle nostre aziende. Ma sapete cosa vuol dire proteggere il know-how delle nostre aziende? Noi abbiamo aziende che hanno dei know-how formidabili che ogni giorno qualcuno da qualche parte del mondo cerca di rubarci. E se riuscissero a rubarci, perderemmo tantissimi posti di lavoro. E adesso la domanda che tutti aspettano. Allora, tu hai, diciamo, al momento lasciato il tuo commissario Balistreri. Insomma, quando uno scrittore lascia un personaggio seriale e debutta con un altro, ci sono alcuni lettori, insomma, che arricciano un po' il naso. Gli orfani di Balistreri. Che cosa vuoi dire a questi orfani? Allora, gli orfani di Balistreri dico una cosa che credo sia la prima volta che la dico in radio, perché la dico ogni tanto nelle presentazioni, però facciamo una rivelazione. Allora, tu l'hai letto il libro? Eh sì, certo. C'è Balistreri nel libro? Sì o no? Rispondimi al volo, c'è o non c'è? Secondo me sì. Ah, perfetto. Allora, vedi, allora perché vi lamentate? Se siete orfani... appunto, se secondo te sì. Quindi tu l'hai letto. Per cui, orfani di cosa, se rispondi così? Vabbè, ma entrano in un'altra forma. No, allora, io dichiaro ufficialmente che la traccia labile, nascosta da Costantino ovviamente, che conduce al mondo di Balistreri esiste in questo libro. E se non ne siete convinti, c'è una pagina Facebook che si chiama Abba Abate e Mike Balistreri, e già il doppio nome ha un significato, su cui potete andare. Su questa pagina c'è un concorso che dice: se avete trovato la traccia di Mike all'interno di questo libro, scrivete a questa mail e Costantini poi sulle mail sceglierà quelle più vicine o più simpatiche e farà una cena in cui insieme unisci con i puntini e poi se trovi, insomma, Roberto Costantini vi offrirà una cena e magari vi metterà anche nel prossimo romanzo. E parleremo del futuro di Abba e Mike. Grazie allora a Roberto Costantini, ora in libreria con Una donna normale, pubblicato da Longanesi. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore sul tratto. Questo romanzo ricorda un po' le atmosfere di alcuni romanzi sudamericani, perché c'è il sogno, c'è la magia, c'è la premonizione, c'è l'oracolo. Insomma, ci sono alcune delle caratteristiche tipiche dei romanzi sudamericani, ma l'ha scritto un'italiana, Arianna Cecconi. Il romanzo si intitola Teresa degli Oracoli, pubblicato da Feltrinelli. Tutto gira intorno ad un personaggio, ad una donna anziana, Teresa. La storia in realtà è raccontata da sua nipote Nina, una donna di circa 35 anni. Dicevamo che il centro di questa storia, il cuore di questa storia, è nonna Teresa. Teresa ha due figlie, Irene, che è la mamma di Nina, e poi c'è anche Flora, che è la zia di Nina. Tranquilli che poi riuscite a seguire tutto questo albero genealogico. E poi accanto a Teresa c'è anche la cugina Rosy e c'è Pilar, che è, diciamo, una sorta di domestica badante. Teresa, dicevamo, è una donna anziana, ha passato gli ultimi 10 anni della sua vita in totale